Innanzitutto viene sottolineata questa presenza di povertà relativa attorno agli 8 milioni e 270 mila persone, più una povertà assoluta del 5,2% degli italiani, cioè circa 3 milioni e 150 mila persone. Sono aumentati gli italiani, c'è un ritorno degli stranieri a frequentare i servizi della Caritas perché hanno perso lavoro. C'è una marginalità grave che non è in decrescita ma è costantemente in crescita, e quello che preoccupa soprattutto è che delle persone incontrate, ascoltate, si ha a che fare con interi nuclei familiari. Un buon 13,8% di queste persone sono nuclei familiari che non hanno disagi in atto, ma la crisi economico-finanziaria ha messo nella condizione di cascare in precarietà e fragilità. L'aumento forte di nuovi poveri, cioè di questi nuclei familiari, è legato al territorio del Mezzogiorno, un più 74%. La nota, direi così, preoccupante, una crescita del circa 20% dei giovani al di sotto dei 35 anni. Non hanno studio in atto, non hanno lavoro e soprattutto stanno gradualmente spegnendo il desiderio di sfruttare qualsiasi opportunità pur di rimanere a galla. Ecco, questa terza nota ci preoccupa molto proprio perché vuol dire che rischiano di consegnare la loro vita alla non speranza.